Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Parte significativa dello sviluppo tecnologico della nostra età dell'informazione non esisterebbe senza quegli hacker che hanno condiviso con altri le loro creazioni. Lui era Pekka Immanen, filosofo e autore di Etica Hacker. Qui davanti c'ho Luca Dello Iacovo. E oggi ci occuperemo di hacker e ci occuperemo anche del conflitto, in effetti, tra hacker buoni ed hacker cattivi. Le news. Una vista panoramica sulla Terra per gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L'equipaggio in orbita ha montato una cupola di fabbricazione italiana. Permetterà di avere una visuale più ampia durante le operazioni all'esterno con le braccia robotiche. Finora gli astronauti avevano a disposizione unicamente le telecamere per manovrare in aree esterne durante le riparazioni. Passiamo alla tecnologia. Arrivano sulla piattaforma per cellulari Android i giochi in Flash e le applicazioni con Air. Entrambi provengono dai laboratori di Adobe. L'annuncio è stato lanciato al Mobile World Congress di Barcellona. L'ingresso sul mercato è previsto per la metà dell'anno. Secondo gli analisti, è una risposta di Adobe all'esclusione dall'ecosistema di Apple, prima con iPhone e adesso con iPad. Ritorniamo sulla telefonia mobile. Alcuni hacker specializzati nelle modifiche per gli iPhone hanno denunciato di essere stati esclusi dalla piattaforma iTunes. Il messaggio della Apple sottolinea come causa dell'espulsione i motivi di sicurezza. Adesso gli hacker non possono più scaricare applicazioni con i loro iPhone. Allora, solo due informazioni da vocabolario. La parola inglese hacker viene dal verbo to hack, che significa tagliare, spezzare, sfrondare, sminuzzare, insomma aprirsi un varco. Perché gli hacker storicamente erano quelli capaci di ridurre il numero di linee di codice per istruire computer. Erano insomma i secchioni del MIT, quelli che non vedevano l'ora di mettere le mani, che studiavano i primi manuali di informatica e non vedevano l'ora di mettere le mani sui mainframe, sui grandi computer. Fatto sta che la leggenda dice che insomma è che anche rompere le serrature dei seminterrati per entrare dentro e frugare nel computer. Questa è la leggenda, però. E sono stati poi i primissimi a passare notti intere a programmare appunto i linee di codice. Quello degli hacker è un mondo molto ampio, è diviso in tanti gruppi. Noi parliamo di hacker, però ci sono delle distinzioni da fare. La prima è quella tra gli ethical hacker, cioè gli hacker che seguono delle linee etiche, quindi quelli buoni, quelli che vogliono sfidare i limiti della tecnologia. Poi abbiamo i grey hat hacker, cioè quelli che si muovono sui confini, quelli grigi. Quelli che alcune volte quindi seguono le regole, altre volte invece le infrangono. E poi invece abbiamo... Poi se i colori hanno un senso, no? Cioè dopo il grigio c'è... Il nero. Esatto, quelli più cattivi di tutti, i corsari neri. Quelli che infrangono le regole per profitto e quelli che in genere poi finiscono sulle prime pagine dei giornali per notizie appunto di e grandi furti. E poi ci sono gli hacker alla Lisbeth, la protagonista di Millennium degli Lisbeth è un po' grigia, eh? È un po' grigia, va bene. Noi parliamo di hacker perché insomma sono più che mai protagonisti della cronaca, lo vediamo, sono al centro della questione tra Google e Cina e vediamo un po' di fare il riassunto dei fatti. A Pechino è scattato un giro di vite su internet dopo le Olimpiadi. Secondo Sergey Brin, cofondatore di Google, le restrizioni sono aumentate all'indomani della competizione sportiva. Il braccio di ferro tra il motore di ricerca e la Cina adesso è in una fase di stallo. Per Google la censura continua come prima. Le autorità cinesi hanno reso noto di aver smantellato un'accademia clandestina di hacker. Durante le lezioni, i pirati informatici addestravano giovani esperti di software per diventare criminali. La tensione tra Google e Pechino è salita all'inizio di gennaio con la denuncia di attacchi verso due obiettivi. Una squadra di hacker ha violato le caselle di posta elettronica degli attivisti per i diritti politici cinesi e ha preso di mira anche i dati di aziende nel cuore tecnologico degli Stati Uniti, la Silicon Valley. Sono informazioni preziose sugli sviluppi in settori strategici della ricerca scientifica. L'era di hacker solitari come Kevin Mitnick sembra tramontata. Tanto che il cybercrimine organizzato è ormai un'industria in rapida crescita. Secondo il Washington Post, 300 attacchi informatici hanno fruttato 100 milioni di dollari ai pirati di internet nel 2008. Tra le organizzazioni più attive è stato segnalato il Russian Business Network, un gruppo di criminali specializzato in truffe, spam e furto di informazioni online. Allora, noi abbiamo in collegamento Gigi Tagliapietra, presidente del Clusit, blogger, una delle personalità di spicco della compagine hacker, ma insomma di coloro che si occupano di sicurezza. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Abbiamo detto un sacco di stupidate nelle schede o no? No, assolutamente. Diciamo l'unica cosa che mi viene da aggiungere è che così l'epoca degli hacker buoni è finita. Cioè, io dico che l'epoca di Zorro che lasciava il segno, che gli piaceva fare il bel gesto, è finita. Ma no, ma perché ci dice così? Noi siamo un po' romantici da un certo punto di vista. Infatti anch'io, quelli bravi, gli Arsenio Lupin che facevano il bel gesto, insomma, l'hacker aveva voglia di dimostrare qualcosa, in fondo voleva la notorietà. Anche oggi l'assunzione all'inizio. Sono stati fatti fuori dai cattivi, invece quelli non vogliono la notorietà, vogliono operare nascosti. E... Tagliapietra, lei mi insegna che all'inizio, insomma, il fatto di lasciare un segnale, di entrare attraverso un firewall piuttosto complicato, era anche un modo per dire al mercato, insomma, per comunicare le proprie abilità tecniche, no? Per cui magari anche per farsi in un secondo momento assumere. Cioè, c'è stata anche questa fase, sì, del mondo. È un curriculum. E Pekka Immanen lo dice molto bene, cioè che c'era un'etica, cioè innanzitutto gli hacker che noi, se traduciamo con un termine un po' più sempliciotto ma più vero, gli smanettoni, no? Erano gli smanettoni quelli che quando trovavano un problema spesso lo dicevano al costruttore, guarda che hai lasciato questo problema. Questo programma, sì, questo baco nella programmazione. Questo baco, questa imprecisione, questo errore. E se il costruttore non interveniva, ecco che l'hacker diceva, ma allora sei scemo. Cioè, ti faccio vedere che se lasci quella roba lì, e tendevano a far vedere il gesto. E quell'epoca purtroppo è finita. Ecco, ora che scenario abbiamo? Nel senso, i fatti, innanzitutto volevo un tuo commento sui fatti cinesi, cioè è vero o è verosimile queste bande di hacker, di persone molto abili a navigare, insomma, a ottenere informazioni al soldo dei governi che impostano delle strategie di tensione tra stati? Ma, allora, che la sia sempre esistita sotto la soglia dell'ufficialità una guerra di spie, credo che sia vero dai tempi di Sun Tzu, cioè 2500 anni fa. Basta leggersi L'arte della guerra e Sun Tzu conclude quel libro dicendo che l'arma più importante per il generale è l'informazione e quindi le spie. Senza arrivare ai casi di Abu Omar, cioè che ci sia un'attività sotterranea tra gli stati, anche quelli amici, che poi mentre sono amici ufficialmente poi sotto, come nella pallanuoto, si danno dei calcioni negli stinchi, mi parrebbe ingenuo non crederlo. Però questo è spionaggio industriale, come dice giustamente, è sempre esistito. In realtà nel caso specifico della Cina è qualcosa di più, perché in effetti nel momento in cui si va a colpire l'interesse di grandi realtà come Google, è quello che è saltata fuori, ma poi Google ha detto, attenzione, che sono andati addosso anche a tutti gli altri, il danno è per un intero settore economico che per gli Stati Uniti è estremamente importante, ed ecco da qui la risposta del governo americano. Io credo che ci sia intanto l'evidenza di un fatto, ma mi sembra importante la risposta che ha dato Google. Cioè Google ha dato informazioni sull'evento, cioè una volta ci stava zitti, no? Si diceva quindi è che nella cambiata sezione... una pratica, è cambiato un modo di affrontare gli attacchi degli hacker. Esatto, mentre una volta si diceva che la security era fatta by obscurity, cioè non bisognava dire mai niente. Oggi siamo in un'epoca in cui invece la risposta è lo scambio di informazioni, è ecco, il darsi una mano l'un l'altro. Tagliapietra, però questo è vero per un gruppo grande, importante come Google, ma per una banca o per una piccola media impresa che insomma viene taglieggiata da bande criminali, insomma il fatto di ammettere di aver lasciato i propri sistemi di sicurezza informatica insicuri non è che se ne senta, cioè non è che molto spesso capita. È proprio lì che sto andando a parare. Una delle iniziative nate negli Stati Uniti dopo l'11 settembre è stato la costituzione dei cosiddetti ISAC, che erano l'information sharing. Cioè si diceva dobbiamo scambiarci le informazioni. Noi tra l'altro in Italia abbiamo provato a farli partire mettendo attorno a un tavolo tutti i gestori di telecomunicazioni, no? Dicendo se avviene un attacco a uno di voi, non è che gli altri devono fregarsi le mani e dire che bello, hanno certo picchiato un mio concorrente. La difesa del terreno di gioco interessa a tutte le squadre. Nova Lab 24. Rieccoci, 16:47. Insomma, siamo arrivati al nodo del coordinamento. Prima si diceva che chi era attaccato da hacker, chi veniva in un certo senso messo alla berlina, ricattato, pagava sostanzialmente. Adesso ci stai dicendo, Gigi Tagliapietra, qualcosa sta cambiando. Sì, anche perché, diciamo, scusa un attimo solo Gigi, sì, poi c'è anche una cosa interessante di Bruce Schneier che dice che appunto la segretezza non è sicurezza, e quindi lasciare queste informazioni, non condividere queste informazioni non significa essere più sicuri, ma magari essere meno sicuri. Infatti, tra l'altro, diciamo che una delle svolte è stata dopo l'attacco all'Estonia, dove addirittura un intero paese è rimasto sotto scacco da un attacco di denial of service. Ci sono state riunioni a cui ho partecipato a livello europeo dicendo ma qui stiamo uscendo dalla logica della singola intrusione in una macchina o per fare il beau geste o per rubare dei soldi. Qui, diciamo, sono nazioni che cominciano a fare a botte usando la rete informatica. Ecco, allora ti fermo un secondo. Primo, perché tu sei stato in Estonia e ci puoi raccontare di come funziona esattamente. Poi perché abbiamo una scheda che insomma riassume un po' quello che è successo e un po' fa il punto sulle cyberguerre, cioè i conflitti tra nazioni. All'alba di Internet, gli hacker erano un'elite e sfidavano i limiti della tecnologia. Poi il web è diventato una piazza per gli scambi economici. Sono arrivati negozi, banche e bacheche per gli annunci di vendita. Il mercato digitale ha fatto subito gola a gruppi di hacker criminali. Sono esperti di software senza scrupoli che hanno deciso di trarre profitto dalle loro capacità. Ma di recente un'altra generazione si è affacciata su Internet. Sono gli hacker attivisti. Alcuni hanno scelto di impegnarsi in campagne umanitarie o nell'ambientalismo, altri invece sono scesi in campo durante occasioni critiche, soprattutto nell'Europa dell'Est. 2 anni fa la Georgia è stata colpita da un vasto attacco informatico. In poche ore i siti di giornali e istituzioni sono scomparsi dal web. Le analisi degli esperti di sicurezza hanno rivelato un'alleanza di hacker professionisti con pirati informatici in erba. E nel 2007 un gruppo di criminali elettronici ha colpito l'Estonia, paralizzandone l'attività economica. Allora, Tagliapietra, tu sei salito su, anzi sei salito in Estonia per dare una mano. No, diciamo che le riunioni a cui mi riferisco erano a Bruxelles, perché l'Unione Europea, dopo l'attacco all'Estonia e alla Georgia, ha detto aspetta che queste sono cose diverse da quelle viste in passato. E c'è stata una serie di riunioni proprio dove abbiamo analizzato che cosa c'era di diverso rispetto al passato e qual è la risposta ai grandi attacchi di massa. La prima cosa è proprio questa, cioè c'è un cambio, c'è qualcosa di diverso da prima, e quindi diversa da prima deve essere la risposta. E appunto dicevo, una delle cose che stiamo dicendo, occorre fare molta più informazione, come state facendo voi. Cioè la gente deve rendersi conto che non si tratta solo di difendersi perché altrimenti c'è un'intrusione sulla mia macchina e mi portano via la roba. Poi la gente dice: io tanto sono già messo male, non c'ho una lira, no. che cosa vuoi che mi portino via? Esatto, in realtà quello che accade è che su una macchina non difesa viene installato del software che poi viene attivato a distanza per andare ad attaccare un altro. È come se uno lasciasse aperto il garage e nel garage di casa propria uno installasse una mitragliatrice da cui spara alla gente. Quindi le macchine anche di comuni mortali, i comuni cittadini, diventano strumenti di attacco, perché quando parliamo di attacchi di questo tipo parliamo di decine di migliaia di macchine che attaccano simultaneamente. È come se migliaia di persone si mettono in fila per entrare in un negozio, lo ingorgano dopo un po'. Esatto, o sempre per usare metafore che gli ascoltatori possono capire, io da uno squalo mi difendo, ma da 10.000 piragna è un casino. Certo. Ecco, Tagliapietra, ma poi che cosa è successo poi in Estonia? Cosa hanno dovuto? Prendere le macchine e buttarle via? No. In Estonia c'è proprio questa lezione. Intanto, vabbè, giusto per dare un flash, è tutto legato a un fatto importante. C'erano grandi manifestazioni di piazza perché l'Estonia aveva spostato la statua del soldato russo dalla piazza della città al cimitero, e la minoranza russa si è arrabbiata, e guarda caso, mentre c'erano le manifestazioni in strada, è partito questo attacco informatico che ha attaccato tutti i sistemi governativi, ricordando che l'Estonia è un paese dove c'è il voto elettronico, dove i pagamenti online sono all'ordine del giorno. Anzi, tra le più avanzate tra le nazioni dell'est nel passaggio. Assolutamente. Cosa è successo? Che nel momento in cui ci si è resi conto che quella non era una cosa normale, ma era un vero e proprio attacco, qualcuno dice ci fosse dietro anche il governo russo, mai provato e mai ammesso, la risposta è stata solidarietà da parte degli altri paesi. Cioè il CERT, il gruppo di esperti estone, ha chiesto aiuto agli scandinavi, ai neozelandesi, agli inglesi, e si è creata una sorta di santa alleanza da questa parte, perché è ovvio che la risposta è stata positiva, l'attacco è stato fermato, perché da questa parte ci sono scambiate informazioni, c'è stata solidarietà, cioè si è visto che quello non era un problema estone, era un problema di tutti noi, era un problema della rete, e così oggi deve essere vissuto. Cioè, il problema non è una diatriba tra la Cina e gli Stati Uniti, è che la rete è un bene planetario, è un bene di tutti noi, è come se inquinassero i pozzi quando attaccano la rete. Grazie Gigi Tagliapietra. Dello Iacos era portato la ragazza che giocava col fuoco. Dovevamo fare tutto un ragionamento su Lisbeth, la nuova figura dell'hacker a cavallo tra il giornalismo e il punk. Però possiamo rimandare alle foto che abbiamo su Novalab su Facebook, dove troverete appunto le foto dei luoghi di Stoccolma dove è ambientato il romanzo Millennium. E noi ci sentiamo domani 16:30. Arrivederci. Arrivederci.